Do il benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko ad una delle cantautrici più stimate del panorama musicale italiano, Cristina Donà. Cristina, benvenuta a Radio Città Fujiko. Buongiorno, buongiorno, eccomi, sono felice di essere in vostra compagnia. Ciao. Il 3 dicembre è uscito il tuo ultimo album, Desidera, e vorrei iniziare questa intervista innanzitutto chiedendoti, perché questo album esce a distanza di 7 anni dall'ultimo disco di Inediti, come e quando nasce questo album e l'emozione, diciamo, di ritornare sulla scena con un super album. Allora, l'album è stato scritto non abbiamo mai smesso di scrivere, e parlo al plurale perché cito la persona con cui lavoro ormai da più di 10 anni, che è Saverio Lanza, con il quale condivido la parte, diciamo, musicale, la parte che riguarda la musica, ma in generale le canzoni le componiamo insieme. Abbiamo cominciato subito a pensare al materiale per il nuovo album, a partire dal 2015, quindi l'anno dopo così vicini. Però io personalmente nella scrittura ci ho messo un po' a capire di cosa volevo parlare, quindi mi sono presa del tempo, ho lavorato in altri progetti, mi sono buttata così in esperienze con altri colleghi. Cito Ginevra Di Mar, Daniele Ninarello, che è un danzatore coreografo straordinario, e tanti altri. E piano piano queste canzoni hanno preso forma, però, appunto, come ti dicevo prima, è stato necessario del tempo per capire quale dovesse essere la natura di questo nuovo album, che poi si è rivelata, in realtà, alla fine non è partito, diciamo, l'idea non è partita da un concept, e quindi da questo desidera, che ha a che fare con l'etimologia della parola desiderio, ma si è rivelato essere il filo conduttore alla fine. È un album che, tra l'altro, mi piace ricordare perché molto importante il suo diciamo, percorso di produzione esecutiva, in questo caso anche oltre a quella artistica. È stato realizzato con una campagna crowdfunding che è appunto materializzata tra febbraio e aprile di quest'anno, e dove hanno partecipato 1.014 persone dette Riser. È stato un abbraccio gigantesco, e ha sottolineato in qualche modo, anche qua ritorna la parola desiderio, il desiderio delle persone di partecipare, di sostenere progetti in cui insomma, vedono una validità, una luce anche in questo periodo così complesso. E quindi, però, come dicevi tu, i Riser lo hanno già ricevuto quest'estate, però il disco effettivamente è uscito il 3 dicembre, ed è, sì, è più emozionante di quello che pensavo, perché la prima volta nella mia discografia in cui un disco esce in realtà in due tappe, fa due tappe d'uscita, e quindi per me era, non dico come se fosse già uscito, ma parecchie persone l'hanno già ricevuto. Invece adesso stanno uscendo le recensioni, si sta, come dire, sta uscendo dagli argini e sta entrando in mare aperto, ed è un'emozione che si rinnova, devo dire, per fortuna. Sono molto contenta anche dell'accoglienza da parte della stampa, e hai l'impressione di essere compresa quando leggi certe descrizioni dell'album, quindi bene, sono contenta. Volevo farti una domanda a proposito del titolo, Desidera, parola molto forte e anche molto citata anche all'interno delle tue parole in questa intervista. Volevo chiederti qual è il desiderio che muove un po' questo nuovo album, in quali sensi compare poi anche nelle parole e nei testi che tu hai scritto. Come ti dicevo prima, il tema si è rivelato alla fine, quando, andando un po' appunto a cercare tra i testi, ho scoperto che il desiderio era appunto un filo rosso, un tema ricorrente, e il desiderio ovviamente ha a che fare, è il motore delle nostre vite, quindi qualcosa che è stato anche un po' bloccato in questo periodo storico e quindi è giusto continuare a pensare, a sentirlo e ad alimentarlo. Però quello che mi ha fatto riflettere di più nella scrittura di queste canzoni è proprio il modo in cui noi soddisfiamo e riempiamo questo vuoto, che tra l'altro l'etimologia della parola desiderio, desidera, descrive bene, perché letteralmente significa mancanza di stelle, quindi c'è questa mancanza che noi esseri umani abbiamo, perché siamo esseri incompleti, e però in questa parte di mondo definita occidentale, comunque un occidente consumistico e capitalistico, che alimenta in continuazione il bisogno di soddisfare i nostri desideri, ecco, la domanda è proprio necessario, sono tutti necessari i nostri desideri, quali lo sono, e forse sarebbe il caso tornare o magari di imparare a desiderare meno, ma in modo più nobile, un pochino più ecocompatibile ed ego compatibile rispetto a pianeta che ci ospita, ma anche ovviamente a chi ci sta vicino, a essere un pochino più consapevoli del nostro ruolo, ecco, di esseri umani in questo momento storico. Cristina, io ti ringrazio, grazie mille di questa chiacchierata e speriamo di risentirci presto. Grazie mille a te, a tutti voi, e un abbraccio.